Il vero punto è di provare a vedere la danza, è una parola grossa, ma di servirsi della danza, cioè la danza non è un linguaggio intoccabile, la danza è un linguaggio che va all'essenza, quindi è molto interessante che faccia da ponte con le altre arti, che non vuol dire per forza creare spettacoli meticci. Uno spettacolo di drammaturgia fisica può avere al suo interno della danza purissima, quindi non è una questione di sminuire il linguaggio della danza, però la nostra spinta, la mia idea è proprio quella di non aver paura attraverso la danza di fare un discorso popolare, comprensibile, di fare attraverso il linguaggio del corpo di creare una discussione. Quindi il filo rosso, per esempio, in questo caso è che cosa raccontano i corpi, e lo facciamo attraverso dei registi, degli attori, dei drammaturghi, dei coreografi, cioè non c'è la danza pura per 4 giorni, ma c'è una danza, come dire, che si mette alla prova.